tutto giurassico. E lui sta riscendendo dal volo dopo aver fatto la rottata. Aspettiamo qua, faccio vedere se lo vuole mettere più così. Oh, perfetto, guarda, anche le posizioni delle antenne sono ottimali, Stai considerando che è stato il portapacchi operativo, quello deve essere le uniche posizioni dove potevi azzardare l'installazione fissa. No, no, va bene. Comunque già sai, dopo la gestione è più verso, diciamo, in avanti che indietro, quindi in direzione verso il punto della macchina, e quello che è invece entrato verso la parte posteriore, quindi hai maggior rendimento sul fronte della macchina. Ok, guarda, arrivi a Santiago 9, quindi il segnale è abbastanza buono. Lo so, mi chiedevo io, avendo la schiena in parte, sicuramente arriverò bene qui. Guarda, usando il MH5890, che non ha una lancetta, non è analogico, è tutto digitale, ma a salti di due, nel senso, quando segnerebbe l'1 fa il 2 e 2, dal 2 fa anche il 2 e 3, dal 3, capito? Fa, diciamo, due sacchi alla volta, quindi io ti dico 9, perché se supera il 9 andrebbe già 9 più 10, capito? Non ci sono differenze apprezzabili, cioè rimane sempre fisso a 9, anzi no, adesso sei 9 più e la radio è leggermente compressa, che apparecchio è? Sai che c'è il resto 10 watt. Non mi torna il conto, diciamo, della popolazione che rimane compressa, non è pulita. Probabilmente c'è da vedere col tempino per migliorare la modulazione. No, non c'ho presente, adesso Venus, il nome non mi ricorda qualcosa, però ad occhio dovrei andare a cercare su internet. Ma sicuramente non è un grosso apparato, è un apparato abbastanza piccolo. Ah, ecco, c'era qualcosa. No, va bene, il discorso della popolazione compressa, ecco, non so come ce l'hai regolato l'ampli. Ok, no, probabilmente bisognerebbe solo controllare sull'ampli che non ci sia qualche problema che riguarda taglio delle frequenze della modulazione in alto, perché se lo usi in FM secondo me è perfetto. Ah, ok, grazie. Rambo, caro Diocchi, Rambo. E allora ce ne siamo, tutti coricati, mandronati, i giorni vivi del letto, mandronati. Non c'è nessuno su canale 10, sta tutti romanzi, però non so che molti si ascoltano, vogliono entrare. Buonasera, OJ. Ehi, è tutto a posto. E beh, hai riposato dalla nottata? Ma quale? Sto scendo adesso. Sono uscito stamattina alle 9 da casa. Sto fatto la voce e poi sono sceso. Beh, ho capito, strano, oggi ti sento sempre bene, ma sei nel furgone. Allora, sono tornato a casa. Dico, adesso sei nel furgone. Sì, sono nel furgone. Perché dico, ti sento bene, arrivi forte. Sì, arrivo sempre forte. Io sono un produttore, si ricorda te. Ah, è vero, scusa, me ne sono dimenticato. E poi non c'è nessun altro? Lo so. Vabbè. Comunque, però il microfono non mi ha ancora detto niente, sto aspettando, così voglio vedere qua se arrivo forte. Lo so, già volevo chiamare, ma ormai non è domenica, forse non è domenica, lunedì volevo chiamare, oh, no, è sabato, lunedì l'ho chiamato. vediamo. Speriamo che abbia freddo, perché voglio provare ad aumentare anche di radio. Comunque, io come ti arrivo o non lo sai? Ah, è vero che stai tornando a casa, no? Pensavo che eri fermo, no, niente, allora lascia che me lo dici a casa, bene, tanto sicuramente la casa sarà più forte. Ci sentiamo a casa. Ti ascolto da casa. Tanto io sono sempre qui in garage. Ok, va bene. Io tanto, come ho detto, sono qui in garage, sono l'unico posto in cui fa freddo. Cambio e ci siamo più tardi. Cambio, sì, io ti sento. Per caso, e questo qui si chiama Valcental. Vabbè, se, perché non voglio molto dire in frequenza. Vabbè, se, vabbè, faccio stare. Ho capito, però mi prendo e se non tutti in ascolto, lo sai che tutti stanno ascoltando e non vogliono entrare. Vabbè, sto aspettando che Eugenio entri, che mi deve dare il segnale da casa. E K, va bene. Io sono già confuso e se... E se un Santiago è una radio. Sì, ti sento, sei sceso di un punto solo, da 8 sei 7, la radio è sempre uguale. E K va bene. Ma che baracchino è? Ah, ho capito qual è, quello che mi sembra ha solo due tasti, ha solo due manopole. E va bene, sì. Ho capito quale mi stai dicendo. È bellino, tipo, è bellino così, ha detto, ma... Come dico sempre, a tutti, preferisco cose di vita che faccio di base, quindi non sono molto difficile. Lo so, come ho detto, non mi piacciono tanto, però come prestazioni già vanno bene, se, se non hai altro da usare. Anche io all'inizio che non avevo molto e quindi usavo un po' quelli piccolini proprio. Però poi ho scoperto questo tipo e mi sono piaciuti di più degli altri. Vabbè, comunque come detto quelli servono sempre, sono anche più importanti. K, ma ti voglio chiedere se sei disposto a ripassare a due passi, perché qualche volta qualcuno ti scopre, non so se è importante o propagazione. Ho capito, sì, sono, non so, perché sembrano in banda laterale, perché la voce non è la sua ed è alterata. Sì. vada in FM, perché ne ho davvero pochi che vanno in FM, appunto quelli del Candy si portano in FM per parlare e ce l'ho proprio in pochi baracchini in FM, quindi penso di prendermene o una sessione base con l'FM oppure un baracchino normale o quando trovo qualcosa in esperto, una cosa del genere. Perché come ho detto io qualche volta non riuscivo neanche a entrare perché prima non avevo baracchini che andavano in FM. Baracchini ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e una ventina ne ho, una ventina è fatta e con quelli poche volte ne uso questo SDS a 2800 che è l'unico che uso per fare i DS, se no non mi uso, non mi uso, è solo questo di base. Ne ho, vado anche comprava baracchini e ne ho diversi, però adesso come ho detto ho trovato questa stazione di base, sto usando questo conto perché mi ha detto Roberto che rispetto al Pieperri, quello che avevo prima, guadagno 5 punti in segnale e quindi uso sempre questo. Non ce l'avrò fatta più. dovuto ritornare al lavoro e adesso sta tornando in Miami. Sto in Querreis, sono qui davanti al barattino, aspetto che entri qualcuno e poi faccio un question. Intanto qua sono davanti al barattino, mi guardo un attimo il cellulare e aspetto che entri qualcuno. Ok, grazie, un saluto a tutti. Entrate però che mi sto annoiando, voglio fare un bel corteo, io non dormite. Chi è? Chi è in frequenza? Io. Sì, mi dica il tuo correggetta, non me lo ricordo mai. E come mai non te lo ricordi, Riccardi? Perché sto pensando ad altro, stavo pensando oggi se diventare radioamatore o non diventare radioamatore. Ehi, volevo diventare radioamatore, una spiccata. Ho detto, dimmi mica il tuo QRZ, subito anche. Ehi, caspita, sono ti arrabbi. Cavolo è qualcosa. Ora. Ok. Comunque sono Alessio. Riccardino. Ok, ciao Alessio. Alessio, sì. Come mi ascolti bene? Ero mezzo collegato sul divano. Fammi un altro passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Dai, fino a 1000, là. 9.30. Così 9.30 e così dovrebbe essere 9.20 in pratica. 9.15 e una radio sempre di 5. Ho capito, già va bene. Sto uscendo con pochi fatti, neanche fatto. Va bene, così sono liscio e così sono andato a cavalcato. Cioè, sto sempre cercando propagazione, sta sempre facendo 40.000 gradi all'ombra e poi non sta neanche scaldando per la propagazione. Non ci sono le macchie solari, caro mio, quindi propagazione è molto difficile in questi periodi. Ci sono i giorni, il sole lavora bene, capito? E quindi la propagazione c'è. Oggi evidentemente, siccome c'è il vento, bella giornata. Non ho capito, puoi ripetere che mi sono distratto, Stavo dicendo che non c'è né propagazione, capito oggi, quindi dobbiamo aspettare un paio di... Se piove vedrai stanotte, se arriva la propagazione penso le 6, le 7. Speriamo, perché io voglio fare gli ex. Fai gli ex, qual è il problema? Io sono stufo di farli. Da 74 ore adesso, figurati quanti gli ex sono fatti. Ma io sono iniziato, voglio farle aerei, soprattutto gli spagnoli, anche altri posti. Ne ho già fatti però tanti di ex. Ho la mia agenda degli ex qui davanti. Soprattutto ho fatto Spagna, Francia e Italia, anche Nord Italia. E il Regno Unito, non dimentichiamolo. No, io già mi arrangio ogni tanto, qualche spagnolo, qualche portoghese, ma francese non ho più sentito, prima li sentivo, adesso non li sento più, o sono spariti, o sono venduti. Io l'ho sentito, una volta che ho sentito francese, che mi hanno risposto, era 50 km da Parigi, tra Nantes e Parigi. Ho capito, avanti, vuoi entrare? Buonasera, Natalino Alfa 1. Riccardi, se vuoi fare DX, devi vedere in banda laterale a 27.555. Capito? Lì è il canale di chiamata internazionale. Grazie Natalino, ben sentito. Ciao Riccardi, buonasera. Anche a te, è ben sentito. Allora Natalino, come mi ascolti? Sì, tutto caldo caldo. Ehi, aspetta che spengo il lineare, se no cazzo, mi ammazza il condominio a me. Ok, adesso a posto, gli ho messo la lampadina, gli ho comprato, gliel'ho messa. Adesso questo BB 131 è nuovo, fiammante. Lo regali? No, non posso regalare, non è mica mio, no, questo. Io ho, sai, lo Speedy GTA c'ho a casa, quello da 100 watt, con una valvola americana. Lo Speedy non ne aveva due di valvole? Il modello vecchio sì, due da 50 watt erano, se ti ricordi bene. E quel 131 di chi è? Non è mica mio, quello 131. Era di Stefano. Come? Era di Stefano. Ah, di Stefano è? Che raga. Perché cosa volevi pompare con l'iniare e incendiare il televisore del vicino? Almeno non ti rompetti le palle. Allora, perché mi sono rotto le balle? Adesso devo sistemare un aggeggio, devo sistemare questi giorni che ho a casa. Capito? Se tutto va bene, mi sciolgo il capo, l'antenna non la sciolgo, ma il 1548 già lo faccio, lo sciolgo senz'altro, perché con 600 watt, tra i tranquillo il 1548 lo faccio biondo. E do di nuovo mattana con 600, con BV 2001, lei mette a fatto lei. Cazzo, quello lì c'ha, il 2001. Ce l'avevo anch'io quello lì. Ehi, c'ho quello lì, c'ho. Capito? Gli ho messo il potenziometro, ma non va bene quel potenziometro che ci ho messo, devo comprare uno nuovo. E così il relè funziona bene, perché ho visto che scappa la potenza sale, e quindi le valvole non c'hanno niente, è solo questione di potenziometro di relè. Speriamo che di tornarlo uguale, così glielo installo e lo provo. Scappa. E sarà il relè sicuramente, che non attacca. Ah, ho già un potenziometro, già te lo ricordi. Che fai? AM o banda laterale, hai capito? Lo gira da una parte e fa la M, lo gira dall'altra parte e fa la banda laterale. È quello che si è incendiato, perché ha avuto un colpo di radiofrequenza, hai capito? Chi lo stava usando ha usato l'antenna che non andava bene, o il cavo, questo non lo so. E ha fatto rientro e gli ha crepato quello. Caffa, il selettore è quello, AM e banda laterale, ho capito. Esatto, sì, quel selettore lì, hai capito. Infatti non funziona, c'ha problemi. Se lo gira a destra, a sinistra fa la stessa cosa. Avanti di cardino. Ok, vado avanti io. Due T, data lì, se no avrei collegato lo Speedy CTE in parallelo a BV131, quindi sarebbero stati 240. Una volta avevo fatto con due BV150, mi ha lanciato in parallelo, come trubavano tutti e due. Sì, già lo so. Prima accendevo uno e poi accendevo l'altro. Allora si faceva lo scatto. Già detta era, si è avuto quello che c'era Mario Massimi, quelli BV 2001, quello normale, ha trasistorizzato, quello tirava fuori quasi 800 watt. Se mi porta quello, lo riparo e ti faccio vedere che dava abbordata quell'aggeggio che cosa mala. Sì, già lo so, quello pompa un bel. Cos'è il 503 quello? È monta di MRF 422, se ti ricordi. Costava poco adesso, prima costava un sacco di soldi quelli finali. Adesso a 23 euro e qualche cosa, 50 li trovi, quanti li vuoi. Perché ho controllato l'altro giorno con Davide, è passato qua a casa, gli ho detto, mi dico quanto vengono i tuoi finali, gli ho detto, ti riordini, gli ho detto. Poi ho detto, mi porti l'apparecchio e già ci penso io a cambiarti. E pure provo. Che reggae. Attacco lo spettatore di G8, l'attacco la sotto l'antenna. Tanto che adesso lo so, neanche 7 metri non di più, perché l'antenna è sotto la. Tutto questo modulato io. C'è un salone in baracchino, già l'hai visto. Ricordo che abbiamo mangiato noi con tua moglie. Ce l'ho lì in baracchino. Quindi la voglia il capo ce ne vuole pochissimo. Pagava. Io un rotolo ce l'ho di 213. Io me l'avevo tutti venduti, c'avevo 150 metri di RG 213, me l'avevo venduto tutto. Perché ti ricordo, avevo tre calate, faceva l'acqua a casa, scendeva a casa di mamma. E poi quando ho cambiato casa, che sono stato lì in Consobito di Emanuele, che avevo pensato la Gran Prix con la RG 58. E dopodiché quando sono venuto qui a abitare ho preso, ho controllato un cavo e capito, dovevo tagliare il motore, dovevo tagliare perché stava già diventando verde. Allora ho preso, mano a mano l'ho tagliato e quello buono l'ho venduto e quello che è nato ce l'ho buttato. Cuocomani. Vai, calcio, tu si chiami Capinello. Tratto. Ciao Marcolino. Avete parlato in due. Antonè? Ciao Marco. Chi c'è, Riccardo pure? Io ho sentito Natalino e cose e basta, scusate. Buonasera a tutti. C'è anche Riccardino. Avete visto che ventaccio, porca miseria, tutto chiuso qua, perché mi faceva sbattere le porte. Via Calopolice c'è un cassonetto della Mondezza, quello del vetro che è sceso giù tranquillamente a metà strada. Lo credo, c'è un bel po' di ventaccio, dai. Comunque dopo tutto c'è anche il sole, dai, non è nuvoloso, cioè non è coperto il cielo. Riprendi Riccardo. Ok, sì, anche qua sta girando forte il vento, sta andando la polvere, mamma mia, stava arrivando agli occhi poco fa dentro il garage. E comunque, come ho detto, saluto a Marco. Ciao Marco. Sì, arrivi come con l'altro baracchino, 9 più 15 con l'altro e 9 più 15 con questo, quindi segnale tuo è quello, dai. Ok, grazie Marco. Natalino, riprendi. Sì, mi è venuto un assillo, Marco lì, ma non è che vuole tolta la modifica per quell'altro, no? A quell'MB più 4. Se vuole tolta la modifica all'MB più 4, ma e tu perché l'hai fatta allora? Cioè non ti accontentavi di un'uscita normale, di un'amplificazione normale, come funziona? Quello amplifica di più, ma se io gli tolgo la modifica forse funziona meglio in quell'altro, non questo, no. Questo qui lo amplifica già da parecchio. Non lo so, vedi tu, ma ormai l'hai fatta, la modifica lasciala, basta che tu abbassi il volume e hai risolto tutto, no? Sì, basta che lo lascio a 2,5 e funziona egregiamente. Egregio, signor Greggio, ti ricordi il drive-in? Via. Quello mi chiamava Natalino da Morale, ma di cosa? Egregio, signor Greggio. E non si è più fatto sentire a barattino, ma si è fatto più vedere in giro. Ci ha mollato tutti, ci ha mollato. E mi sa che si è messo male quella persona lì, che non sa più scendere né nulla, quanto ho capito. Io non l'ho né più visto e né più sentito. Ah, io ho visto un paio di volte la sorella, la verità, lì con la cosa, ci ha proprio appresso. La, come si dice, una ragazza, capito? Quindi mi ha salutato via città mercato, se no è l'apparecchio che non lo vedo, ma è sempre uguale comunque, sempre magra. Lui non lo voglio più ricco, una volta sono andato e vabbè, ho bruciato il vino a metà, capito? Mi piace molto il vino, non so se mi piace ancora adesso. Antone, sai che ho visto dopo un'infinità di tempo? Ma durava da tipo... porca miseria, tra via Napoli via Mendola, quella piazzetta, come si chiama? Non mi viene il nome. Piazza... 4 luglio. Ti ricordi Edmondo? Edmondo entrava col nome di... che nome usava? Eugenio, forse. Ma il nome reale era Edmondo, sto sbagliando io? No, non era Edmondo, era... abita lì vicino, cioè lavora lì vicino lui, e abita pure, non so, io avevo due giorni, vieni qui a fare la spesa dallo spino, capito, c'è una macchina nera, c'è. Io ho capito Natalino in passato, sì, quello vabbè un altro, sì, ma io sto dicendo questo, l'avevamo conosciuto negli anni 80 e poi sparito nei secoli dei secoli. Comunque Antonello, a quanto ho capito, se lo ricorda Edmondo, sì. E a voglia, me lo ricordo. Ehi, sono passati 30 anni, caspita, quanto tempo. Dai, fate girare, tanto io qua sto andando e venendo, dai, mi sto zuffando col computer. E poi mi dovrò zuffare con la stampante. E poi mi dovrò zuffare a stampare tante cose, devo fare stampare. Per carità. Manco comprata la cartuccia, vedrai, me la mangerà tutta. Vai Riccardo. Ma la cartuccia della stampante? Eia. Siccome mi è finito il rosso, no? Il magenta, però alla fine finiranno presto anche gli altri, ho comprato direttamente la cartuccia, la confezione da 4 cartucce. Così man mano che finiscono le cambio, man mano che stampando finiscono le cambio. Epson, ho sempre usato Epson, una Canon nel 2000, non so nemmeno se, no, non è di nato, nel 2000 una Canon, ma era brutta, stampava molto a grana grossa, proprio brutta, pensa, costavano all'epoca una misera stampante a colori, sempre a 4, 315.000 lire mi pare, non c'era nemmeno l'euro, no? Adesso quelle tutto in uno, fotocopiatrice, stampante, scanner, 39,99 in offerta della Epson, è una cosa incredibile, vai Ricca. Lo so, anche noi l'ho comprata l'altro giorno, c'era finito tutto l'inchiostro, introvabili, abbiamo girato per negozio, non se ne trovavano, l'abbiamo trovata alla fine da Media World. Forse è una stampante che sta andando fine serie, sai, quando non producono più una certa serie di stampanti, allora cominci già a non trovare le cartucce. No, la mia è quella che usa, quelle cartucce dove c'era raffigurata una fragola rossa e costano anche meno di tutte le altre. Invece a mia zia è capitata una stampante che ha un'altra figura raffigurata sulla confezione e che ne so, una cartuccia singola anziché 12 euro le costa 20 euro. Invece ho guardato anche il lato economico, ho detto che senso ha, cioè prende una stampante che ha le cartucce più care di tutte e io me la sono scelta apposta invece. Vai Natalì, riprendi. Io ho questa qui che è bellissima, la XT630 della Epson. Questa qui c'ha un casino di cartucce, lo stesso dentro, cioè addirittura anche le fotografie puoi stampare perché c'ha il nero fotografico, insomma già c'ha due neri, uno normale e uno fotografico. Eia. Ah, ho capito, sì, tu hai più colori di tre, vero? Non mi ricordo, quelle fotografiche hanno fino a 5 colori mi pare, o di più. e un sacco di cartucce, insomma. Ma io le compro da coso, da via Catalocchino, di quelle che caricano loro. Ah, ho capito, sì, quelle sostitutive, dai. No, io finché trovo le originali prendo le originali, perché Epson usa un inchiostro a pigmenti, quindi è qualitativamente superiore. Che ne so, se, anche se lo bagni appena il foglio non cola, l'inchiostro almeno che io ricordi non cola, quindi se devi affiggere volantini, che ne so, tipo hai smarrito il gatto, metti i volantini attaccati ai pali, anche se piove non cola l'inchiostro, mentre con la vecchia Canon colava pure l'inchiostro. Poi sai com'è, cioè costano gli Epson, ma sono inchiostri buoni, a pigmento, quelli che ti mettono sono inchiostracci, boh, sarà inchiostro di penna, non lo so, inchiostro di china, boh, non lo so. Pure funziona bene, questa qui stampa benissimo con quegli inchiostri lì, è logico se prendi quelli originali, boh. Comunque è ad alta qualità questa, eh. Eia, sì, quello è tipo fotografico. E io temo per gli ugelli, perché quando compri questi inchiostri sfusi, no? Te li riempiono loro, oppure compri quelle cartucce di marche improbabili, anche se sono compatibili, ho paura che a lungo andare gli ugelli ne risentano. Invece addirittura avevo avuto una Lexmark economica, ma molto economica, che per quanto fosse economica, aveva la testina di stampa incorporata nelle cartucce d'inchiostro, cioè come tu cambiavi le cartucce avevano la testina incorporata e quindi gli ugelli erano sempre perfetti. Riprendi, Antonè. Eia. Ma conviene più comprare la stampata che le cartucce a fottettini. Vabbè, sì, poi quando la compri ti danno anche delle cartucce, non so se siano piene le prime, se siano dimostrative, di solito durano meno del normale. E vabbè, finché non si rompe uso quella. Stampante è banale, è proprio il minimo sindacale, a me non mi interessa avere wifi, queste cose qua, io uso il cavetto, anche col cellulare uso il cavetto. Perché poi non sai mai chi può intercettare quello che stai stampando, già lo sai, no Nathalie? Anche se è tutto crittografato, quello che vuoi, però, come dire. Questo bip improbabile, che bip è, Marco? Le 4:18 è presto ancora, ecco perché non c'è quasi nessuno. Va bene, dai, riprendete che io mi devo pigliare una pastiglia. Vai Ricca. Sì, come ho detto, io no, uso la vabbè, però sta poco questa stampante e è uscita da poco, anche forse 2-3 mesi è uscita e non si trovano le cartucce, boh, non lo so. Ma che marca è? La marca Mariotto, sono di quelle classiche, le più famose, ecco, ha capito, è una capito. Beh, potrebbe essere una fine serie, magari sai la danno in offerta quando cominciano a sparire, non dico tutta la serie di stampanti, no, però una stampante in particolare, una seccatura, perché poi bisogna andare sugli inchiostri sostitutivi, possono non essere buoni quanto quelli originali, già se li fanno pagare gli originali gli inchiostri, maledizione. Ok. Di nuovo, fate girare, dai, sono all'ascolto un attimino. Vai, Antonè. Ia, anda bene, anda bene. Scusa, Ghita. Cazzo, di tanto non entravo, raga. Ciuscio, cazzo, un togliaio sono diventato questa cosa. Ma hai visto via tutte quelle che stanno entrando? Santo me, che ero distratto. Ho detto, hai visto tutte quelle ragazze che stanno entrando? Tutte single sono, ragazzi. Ce ne sono poche di sfogliare le liste, ragazzi. Dove? Su, come si chiama? Si chiama? Gruppo donne e uomini single e non. Cazzo, di tanto entra una lenta, ragazzi. Tutto pieno, ragazzi. Non ho visto nulla di quello io. Ehi, e se no le amiche di cosa mi? Di Leonardo Farmacia, cazzo. Tutte americane sfogliare le liste, cazzo. Non ci vado a vedere queste cose io. Questo, per questo neanche io che non va a giocare alle banane in Italia. Non per quello, ma siccome c'era un amico su Facebook. Sono di quelli neri, tipo è identico a quello della CTL MDL 4190. È bello squillante. Cavalava, va bene, va bene. Ma chi c'era poco fa in ruota? C'era Natalino, poi c'era Eugenio che adesso stava tornando a casa, poi non l'ho sentito. Poi c'era Alessio, poi c'era Marco e basta, mi sembra. Va bene. Giusto per farmi dare un controllo, cioè, se l'antenna stava funzionando, il vento gli ha fatto la festa. Luca, tu sei? Uè, Marco, no, sono Daniele. Ciao Daniele, 9+10 qua. Adesso non mi ricordo il tuo coso originale, ma sembra che stia andando. Spero di sì, Marco, perché lo sai cos'è, che c'ho il QRM come se l'antenna andasse o non andasse, hai capito? Troppo zitto, Ripeto, Daniele, io non ti sento da un bel po' di tempo da casa e non mi ricordo nemmeno quant'era il tuo segnale, però presumo, sì, forse era più alto, adesso, caspita, quanti mesi sono passati? Un sacco. Un bel po', quasi un annetto, Marco, vabbè, io d'estate andavo sul 45, d'estate a tempo perso andavo sul 45, adesso è qualche mese spento. Però qua è sotto strumento e c'ho uno e qualcosa di stazionario, dai. E sono anche. È anche staccato qua tutto. Sono tornando con pochi watt, dai, 2 watt saranno. Eia. Sì, oddio, non c'è tantissimo QRM, l'ho notato anche col 3009 prima. È molto ventoso, ma QRM dopo tutto non ce n'è poi tanto. Questo è più rumoroso, però è rumoroso di suo, indipendentemente dal QRM. Vabbè. Ok, c'era Natalino anche, c'era Pomponio, Riccardo c'è tuttora mi pare, no Ricca? Cosa? No, sentite il finalino. Ehi, appunto, dicevo, prima c'era Natalino, Pomponio e anche Riccardo adesso. Ho notato una cosa, Ricca, c'hai, sì, 9 più 10 adesso. È una cosa che ho notato anche l'altra sera. È come se il baracchino, man mano che scaldasse, desse meno watt, è mia, un'impressione mia. E mi pare che te l'avesse detto anche un altro utente del 10. No, ma forse perché Roberto mi aveva detto che mi ero abbassato con l'altra stazione base. Senti Marco, c'ho il segnale, non mi ricordo il nome, come si chiama? Lo Smitter. Riccardo si chiama, no lo Smitter, non lo so, Riccardo, così è. Sì, sì, sì, Riccardo, zona dovrebbe essere Filigheddu Alta più o meno, no? Vabbè, la zona lo so, però oscilla da 9 a 7. Ecco, no, qua oscillare no, conta che c'è parecchio vento, quindi sicuramente anche la mia antenna sta ballando l'hula hoop lì sul terrazzo. E il tuo lo stesso, fa 9,25 abbondanti e scendere intorno ai 9,20, dai, ma sicuramente è come stanno oscillando le antenne. Che sembrano in movimento, dai, segnale tipo stile BM. Eia. E tu cos'è, che canale a pesca, Daniele? No, io c'ho sempre l'Energy, Marco, l'Energy lì. Anche tu, insomma, queste Energy si stanno moltiplicando. Mi pare ho iniziato io, o forse contemporaneamente con te, insomma, io, tu, Natalino, cose di Pro Torres, Eugenio Pro Torres, Torino Kawasaki, chi altri l'ha preso l'Energy? Un sacco di gente se la sta prendendo alla fine. Tutti la denigrano e tutti ci la giopigliendi. No, il problema è, lo sai cos'è, c'è il problema, io avevo iniziato dopo che avevo smantellato tutto, cioè avevo la Ringo, te la ricordi, che stavo provando, e poi avevo recuperato un Energy e l'ho piazzata al volo, e avevo ordinato un tempo dalla GBC che non è mai arrivata. Ehi, ma modello mezz'onda o 5 ottavi? No, la 5 ottavi c'ho. Allora è identica a quella che ho io, ma ho visto che ce l'ho dal 2014, io ero convinto di averla 3 anni su, no? Poi ce l'ho messa a maggio 2014, quindi sono passati già 6 anni e nonostante tutto il vento ancora tiene, quindi non è così malvagia come dicono, dai. No, malvagia è malvagia perché, cioè, io sul 45 d'estate in propagazione ho fatto diversi collegamenti, e arrivavo pure abbastanza bene quando i collegamenti erano belli aperti, cioè, la trocazione era bella. Alcuni mi dicevano poi sembrava una telefonata. Sì, a voglia, ricordati che è pur sempre una 5 ottavi, magari renderà, che ne so, mezzo Santiago meno della Mantova, seppure. Io sarei curioso di fare una prova, cioè stesso cavo, stesso palo, mettere la Mantova, chiedere controlli, toglierla, mettere la Energy e chiedere i controlli. Magari poi hai delle sorprese e scopri che rende quasi uguale. Ok, poi vabbè, anche per i DX basta mettere qualche watt in più, è fatto, c'hai un bijou di guadagno, un bel guadagno, ok dai. Chi altro c'è? Natalino c'è ancora? Riccardo, Pomponio c'è ancora? Ma sono in QRX. Natale! Qui sono in QRX, mi dovete scusare che è venuto, che deve venire un amico a prendersi una certa cosa, là. E stavo provandola. Va bene, riprendi Ricca. Oh, quasi un vento forte, pensavo mi stava buttando giù le antenne, quasi. Si sta alzando. Si sta alzando parecchio il vento. Prova a mettere aspetta un po', adesso si è calmato il vento però qua c'è un attimo di calma. No, Daniele, volevo provare. Primi la portante muta 5-10 secondi che guarda il tuo segnale, vediamo se oscilla. Qua è fisso, qua ti vedo proprio 9-10, conta che c'è uno smitter alla LED, però è 9-10, non oscilla. Comunque può darsi pure che sia quello, perché sai, come c'è vento, oscilla un po' la mia, oscilla un po' la tua, tutte oscillano, e quindi può darsi che in qualche momento ci sia qualche piccola differenza, che io non vedo perché qua è a LED, cioè o segna 9-5 o 9-10, non è così selettivo questo smitter. È sempre un baracchino, Sì, ma il problema è che il QM è troppo basso, come problemi di antenna, Capito? Però adesso si è nuovo ripreso, era sotto all'1, adesso è salito a 1 il QRM. Magari è giusto, Capito? Eia, comunque ha modulato 6-9-15 anche, ai picchi positivi. Quando moduli lo vedo, un attacchetta in più mi fa. Riccardo, a te com'è il QRM? È basso? Forse si è allontanato. Sicuramente magari si è spostato. Come se ci fosse, per darti un'idea Marco, qualcuno su un canale a fianco, capito? Che ti fa quel silenzio tombale. Scusate, il QRM ce n'è poco. Buono, buono, ottime notizie allora, dai. Va bene. È ok, prendete. Guarda così Marco, com'è il segnale? Adesso Maria, ma io adesso dubito della qualità dello smitter, allora si è passato a 9,40, premi la portante muta. Caspita, 9+45, se questo è il fondo scala 9,60, no? Sempre che lo raggiunga, ma cioè si è passato da 9,15 modulato, oppure 9,10, già capito, non modulato a 9+45, mi sembra guadagno anche fuori misura, ma che tu non ci abbia un kilowatt, magari ce l'hai pure. Guarda adesso, è tornato normale. Eia. Cioè, vabbè, comunque sembrerebbe già inusuale, quindi fai il conto, 10, 15, 20, 30, 35, 40, e caspita, o il mio che è generoso di smitter, comunque c'è la differenza e come, e abissale pure. C'avevo l'aiutino, c'avevo. L'aiutone? Giusto un paio di watt. Con 3 zeri finali. Riccardo, Riccardì, no anzi prima eri Riccardino, quando eri col segnale basso, adesso con questo segnale bisogna chiamarti Riccardone. Lo so, sto diventando il più forte alla frequenza. Infatti se lì metti qualche watt in più, 200-300 watt, cominciano a piangere tutti qua a Sassari, perché lì è molto in alto, Bene, dai, io signori mi dedico un attimino al computer che sto operando, ultimando delle operazioni. Lascio acceso e forse torno dopo. Se non ritenetevi salutati. Ciao Riccardo, ciao Daniele, ciao a tutti e a quelli d'ascolto anche. Ehi Marcoli, dai, ce l'ascoltiamo alle prossime, dai, se coincide. Io già riesco a fare ancora qualche paio di passaggi qua. E poi vediamo, perché devo andare anche a lavoro dopo. Ciao Marco, a più tardi, anche io resto un attimo in QRX e torno subito. Va bene. Comunque Ricca, sto notando che sta scendendo il segnale ulteriormente, eri 9+15, poi 9+10, adesso 9+5. Mentre Daniele è stabile qua, tu stai calando. Stavo pensando che non, scaldando i finali non ne risentissero un po'. Vabbè, dai. Ok, dai, sentiamo le prossime. Ciao a tutti, ciao. ciao Marco, lì anch'io, dai, faccio, resta un attimo qua in ascolto, dai.